Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria che è partita a rilento la settimana e non la giornata, mi riferisco chiaramente alle notizie di carattere economico, rilento anche per le borse, meno 0,2 Milano, più 0,2 Francoforte, più 0,6 Parigi, meno 0,3% Londra. Il Dow Jones meno 0,24%, ancora sui titoli, singoli titoli, segnalo bene Buzzi Unicem più 3,91, Ferragamo più 2,60, Prismian più 1,90, Enel più 1,50%, Enel Green Power più 1,20 come Fiat Chrysler e Azimut, l'1,20 lo guadagna anche Moncler. Fronte opposto, Monte dei Paschi invece perde il 5,60%, le banche oggi sono di nuovo tutte deboli e mi riferisco anche al Banco Popolare meno 4,60% e Popolare Emilia Romagna meno 4,60 anch'essa e poi Pop Milano meno 4, Unicredit meno 2,80 come UbiBanca. Sul fronte bancario ne parleremo, sarà uno degli approfondimenti, intanto perché inizia, c'è una notizia sulla Cassa di Risparmio di Genova dove si è saputo che cioè, sarebbe un interessamento, infatti il titolo guadagna oggi il 3,80%, Cassa di Risparmio di Genova. Dicevo, c'è un interessamento del fondo americano Apollo per comprare le sofferenze, i cosiddetti non performing loans, quindi i crediti che non si avranno concessi dalle banche, che non torneranno più indietro, che è il grosso tema delle banche italiane in questo momento. Parleremo anche del modo in cui si opera in questi casi, nel senso che molti di voi ci hanno chiesto ma qual è il motivo per cui qualcuno va a comprarsi crediti che sono in sofferenza. Beh, perché li compra a sconto, diciamo in maniera un po' brutale, e da questo punto di vista uno lo compra a sconto e cerca di guadagnarci sulla differenza, quindi se il credito è 100 e tu lo compri 90 cerchi di ottenere 92. Questo è un po' il principio, ma ne parleremo in maniera dettagliata. Ancora, per quello che riguarda il tema bancario, al di là dei non performing loans, delle sofferenze, faccio notare che c'è anche il tema di quanto è capitato all'Assemblea della Popolare di Vicenza. Ora, uno è libero di votare quello che vuole, ci mancherebbe. Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che non sia passato in assemblea dei soci della Popolare di Vicenza, non è passato l'azione di responsabilità contro i vertici, precedenti vertici, e anche contro le remunerazioni. Di questo parleremo. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo con un approfondimento, visto che molto si parla in queste settimane, ahimè, di immigrazione, di profughi, di tensioni anche terroristiche. C'è un paese in cui tutti ritengono, non è un paese, è un continente, scusatemi, arriveranno invece notizie positive visti i tassi di crescita, e si chiama Africa. Mi riferisco all'Africa subsahariana, quella che una volta si chiamava Africa nera. Lì in realtà ci sono indicazioni di una crescita economica, per carità è un continente ancora con enormi problemi, ma da questo punto di vista è il continente dove i tassi di crescita, visto quello che è successo in Brasile, in Russia e anche il rallentamento indiano e cinese, sono invece stati confermati e rivisti anche in miglioramento. E su questo ricordo che vi sono state almeno 3 missioni del governo italiano recentemente proprio per stringere i rapporti commerciali con alcuni paesi africani, quelli con il maggior tasso di crescita. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Make my day. Partiamo dalle notizie di carattere internazionale come sempre. Tra l'altro oggi il rapporto Aging World 2015, il mondo che invecchia, stima, è un rapporto mondiale statunitense, riguarda la popolazione chiaramente mondiale, e vede dei tassi di invecchiamento a una velocità senza precedenti. Nel 2015 l'8,5% degli abitanti della Terra, cioè sono 617 milioni di persone, aveva 65 anni, ma nel 2050 la prospettiva, la percentuale salirà al 17%, ossia 1 miliardo e 600 milioni di persone avranno più di 65 anni. Questo è un tema, come tutti i temi demografici, chiaramente di carattere economico, perché poi i sistemi di welfare nei paesi occidentali devono tener conto di questo invecchiamento, ripeto, usando la definizione senza precedenti della popolazione, anche perché nel 2050, per fortuna, l'aspettativa di vita media aumenterà di quasi 8 anni a livello globale, quindi da 68,6 anni, che è la media dell'aspettativa di vita nel 2015, a 76,2 anni, e quindi la popolazione mondiale che avrà più di 80 anni da qua al 2050 triplicherà, che, ripeto, è una buona notizia, poi va gestita sul fronte delle politiche sociali. Triplicherà, passando da 126 milioni che sono attualmente gli over 80, gli ultra ottantenni, a 446 milioni di persone. Allora, dall'America sappiamo che, insomma, la new economy ha anche vecchie pratiche. Penso per esempio agli ai salari, chiamiamoli così, dati ai numeri uno. Il numero uno di Google, Sundar Pichai, che in realtà è arrivato da un anno, però ha ricevuto come compenso per il primo anno di guida della società Google 100 milioni, per la precisione sono 100,5 milioni di dollari. In realtà ha avuto 99,8 milioni di dollari di titoli vincolati, quindi titoli Google vincolati, immagino a una scadenza, non può venderli subito, e 650 mila dollari come stipendio. Le attese per oggi, visto che siamo in tema di economia internazionale, chiaramente sono per discorso che il presidente della Fed, Janet Yellen, dovrebbe pronunciare in occasione del suo intervento all'Economic Club di New York, per fare capire agli investitori se confermerà quanto già detto, ossia massimo due aumenti di tassi di interesse molto graduali per quest'anno negli Stati Uniti, come conseguenza di una crescita economica che non tanto nei consumi interni americani quanto nella crescita globale si è obiettivamente rallentata, non si è fermata ma è rallentata. Per quello che riguarda invece i casi di casa nostra, mi riferisco all'area euro, il credito delle banche a famiglie e imprese è aumentato a febbraio. Secondo i dati della Banca Centrale Europea, i prestiti alle famiglie hanno fatto più 1,6%, mentre quelli alle imprese hanno fatto più 0,9. Le buone notizie arrivano sempre sul fronte del debito pubblico in Italia, perché oggi l'asta dei bot a 6 mesi ha fatto il pieno e il rendimento è calato ulteriormente, ancora più negativo, meno 0,05% è quello che si guadagna, o meglio si perde, perché è negativo come rendimento nel comprare debito italiano a 6 mesi. Erano 6 miliardi di bot in asta, domanda molto alta, quasi doppia, 10 miliardi, e il rendimento, appunto, che è calato ulteriormente, dimostrazione che non c'è un problema nel collocare il nostro debito, dallo 0,04, da meno 0,04 a meno 0,05%. E poi il premier Matteo Renzi, che ha annunciato su Facebook, è in volo per gli Stati Uniti, dove andrà a inaugurare l'impianto di Enel Green Power, se ho ben visto. Però dicevo, ha annunciato su Facebook che il prossimo 30 aprile, in occasione dell'Internet Day, dove verranno celebrati 30 anni dalla scoperta, tra virgolette, di Internet, verrà annunciato anche il primo bando per la banda, scusatemi il gioco di parole, il bando per la banda ultralarga, il primo di una serie di bandi con cui il governo punta di arrivare al 2020 a connettere tutto il paese ad alta velocità. Segnali contrastanti invece sulla fiducia. A marzo l'indice di fiducia registrato e misurato ogni mese dall'Istat segnala infatti un aumento da 114 a 115 punti per i consumatori della fiducia e un calo invece da 103 a 100 punti per le imprese. Questo però, le interviste si sono concentrate prima degli attentati di Bruxelles. Faccio notare che il calo maggiore nella fiducia delle imprese è nelle imprese dei servizi, da 106 a 103, sostanzialmente stabile quella della manifattura. Ricordo che i 100 punti sono uno spartiacque per una fiducia, diciamo, che è recessiva oppure che crede ancora in un'espansione dell'economia. Ecco perché il tema dei 100 punti sull'indicatore di fiducia è un tema abbastanza importante, comunque si va a guardare. Per quello che riguarda invece le stime sulle previsioni economiche, ci occuperemo del Centro Studi Confindustria, perché l'8 di aprile, se non ricordo male, venerdì 8 aprile, ci sarà la due giorni biennale del Centro Studi Confindustria, che illustrerà anche tutti gli elementi di carattere economico che rendono competitivo e non competitivo questo paese. Dicevo, oggi il Centro Studi Confindustria però ha stimato che se non si rivedranno i confini temporali della flessibilità concessa dall'Unione Europea, al momento ce l'ha concessa solo per un anno, c'è il rischio che l'anno prossimo l'Italia debba mettere in piedi una manovra da 24 miliardi. Perché nel 2016, grazie alla flessibilità, si avrà una minore riduzione del deficit pari a 0,6 punti di PIL, ma nel 2017-2019, se si desse seguito a quanto previsto dal patto di stabilità, non vi sarebbe questa maggiore flessibilità e quindi la manovra dovrebbe ammontare a 24 miliardi. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, a firma del vice direttore oggi del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La flessibilità nelle regole europee sui bilanci pubblici è cruciale per il successo delle riforme strutturali. Ma quella chiesta dall'Italia ormai un anno fa è troppo poco e troppo limitata nel tempo. È la conclusione di uno studio del Centro Studi Confindustria, messo a punto da Alessandro Fontana e Luca Paolazzi, che sostiene come far conto solo sullo 0,5% di flessibilità, che sono a occhio e croce 8 miliardi di euro, e per giunta per un solo anno, è del tutto insufficiente e penalizza quelle riforme che abbiano costi iniziali superiori alla soglia di compatibilità e siano protratte più a lungo nel tempo, come sono quelle fatte dall'Italia peraltro in tema di lavoro, concorrenza, semplificazione, giustizia e infrastrutture. Per il CSC quindi occorre invertire l'orientamento del Consiglio europeo, recuperando lo spirito originario della flessibilità nei conti pubblici dei Paesi membri. Il CSC ricorda che la flessibilità di bilancio è stata pensata come un incentivo per adottare virtuose riforme strutturali e investimenti e per i Paesi che sono riusciti con alti costi sociali a ridurre i deficit pubblici sotto la soglia del 3%. Oltre che naturalmente per fronteggiare situazioni eccezionali come un flusso migratorio straordinario o una congiuntura economica particolarmente negativa come sono i casi accaduti all'Italia. La clausola delle riforme è la parte più rilevante della flessibilità, sia politicamente sia economicamente, ma imporre rientri troppo accelerati e ridurne la portata quantitativa può azzerare il percorso riformista e addirittura può portare a situazioni politiche che penalizzino proprio le riforme, perché potrebbero portare a bocciare i governi riformisti. Insomma, sarebbe, come si suol dire, una bella eterogenesi dei fini, l'Europa è avvertita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molte domande ancora sulla cassa di Family Genova e l'offerta di Apollo. Ne parleremo più avanti. Oggi, tra l'altro, in tema di banche messe male, non c'entra niente con la cassa di Family Genova, ma mi riferisco a Banca Marche, e vi è stato un altro sequestro, questa volta per 3 milioni e mezzo di euro a carico dell'ex direttore generale di Banca Marche, Massimo Bianconi. Se ne è avuta notizia oggi, il sequestro è stato eseguito lo scorso 24 marzo, riguarda polizze fiduciarie intestate alla moglie di Bianconi, ma che secondo l'accusa sono riconducibili all'ex manager della vecchia Banca Marche. Sono 3 milioni e mezzo di polizze fiduciarie, per carità, però insomma, dateci ancora qualche circa un quarto d'ora, 20 minuti, e parleremo anche della Popolare di Vicenza. Non voglio invece parlare, nonostante molti messaggi sia su WhatsApp che su SMS, della vicenda di cosa mangiare. Guardavo i dati e sono aumentati i consumi di coniglio e capretto a Natale, questo dicono i produttori. Abbiate pazienza, insomma, il mondo è bello perché varia, ognuno mangia quello che vuole, l'importante è non limitare gli altri. Il riferimento chiaramente a quanto è successo venerdì qui nella sede Sole 24 Ore, e diciamo con un gruppo di manifestanti che ha cercato di così aggredire Cruciani. Il punto è molto semplice: uno è libero di fare quello che vuole, si rispetta la legge italiana prevede che si possa mangiare carne, ci mancherebbe, e se no uno può indire un referendum e vedere se becca il 51% dei voti dei vegani, dei vegetariani, nel massimo rispetto. Uno, se ritiene che la carne faccia male, c'è anche un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che invita a stare attenti al consumo di carne, così. Però tutto il resto è legale adesso, non iniziamo a raccontare che i salami o i capretti o gli agnelli non si possono mangiare. Le macellerie cosa facciamo? Chiudiamo le macellerie in Italia? Chiudiamo tutti i reparti di carne dei supermercati italiani? Mandiamo a casa, magari a casa dei vegani, dei vegetariani, 180.000 addetti del settore, 180.000 addetti nel settore carni, la filiera. Noi siamo un paese che ha 180 miliardi di export di produzione del settore alimentare, di cui 32 miliardi sono riconducibili in maniera diretta al settore carne, quindi insaccati, salumi, carni fresche e quant'altro. Chiedo, oltretutto il ragionamento che uno può fare, cosa facciamo in questo periodo? Mandiamo a casa 180.000 persone, e siamo stati prudenti, nel senso che da questo punto di vista non abbiamo inserito tutto il prodotto alimentare che non è riconducibile in maniera stretta alla carne, quindi insaccati, salumi e quant'altro, ma contiene carne. Adesso non voglio entrare nel tema dei tortellini o dei ravioli, ma insomma non c'è solo quello, per cui detto questo, cioè non c'è nessuna proibizione dello Stato italiano, le leggi si rispettano, piacciono o non piacciono, rispettano tutti, l'alternativa è solo la dittatura della minoranza. Su, ma non sto offendendo nessuno, né i vegani né i vegetariani, dico solo rispetto per entrambi. Se uno non ama mangiare l'agnello, il coniglio, può tranquillamente farlo, ci mancherebbe, no, ma non proibire agli altri. Allora, 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6 per i vostri SMS e per la pagina di WhatsApp. Dopodiché c'è anche il sito di Radio 24, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo adesso col meteo e poi passiamo all'Africa e poi alle banche di casa nostra. Focus Economia. Allora, dicevo, visto che oggi la giornata non ci sta massacrando con notizie, diciamo, dell'ultimo minuto, proviamo a ragionare sul tema dei migranti, anche perché il Financial Times è uscito con un articolo dicendo: attenzione, la politica di Renzi sarà messa a dura prova nei prossimi anni ci sarà un aumento dei flussi dei profughi del Sub-Sahara, quindi la parte, diciamo, sotto l'Africa del Nord. Però faccio notare che è vero che c'è una pressione demografica enorme, ma in questo momento, nella revisione della crescita di tutte le aree geografiche, l'unica che si è salvata è stata la crescita del continente africano, una delle poche che infatti non solo ha mantenuto le previsioni, le ha viste anche aumentare come tassi di crescita, e lì Fortunatamente ci siamo mossi anche negli ultimi mesi con varie missioni di sistema, quindi non solo il governo, ma anche le imprese, il mondo bancario, le grandi imprese, ma anche le medie, le cosiddette multinazionali tascabili. Allora, parliamo di Africa, dicevo, perché? Perché come facciamo spesso con le missioni imprenditoriali che hanno come guida il governo, quindi spesso Presidente del Consiglio, i ministri deputati e i ministri deputati, oggi è il caso di tornare sul tema africano. Ci siamo occupati chiaramente in questi mesi solo e soprattutto per quello che riguarda la geoeconomia della Grecia, della vicenda di tutta l'area, diciamo, balcanica, chiaramente per i flussi dei migranti, però non è un mistero che l'Africa in questo momento rappresenti, l'abbiamo spiegato più volte, da un lato un rischio perché sappiamo che c'è tutto il flusso poi che arriva nel Nord Africa da paesi africani, ma rappresenta anche, secondo molti osservatori, l'unica area geografica che in questo momento non ha subito una botta d'arresto, come è avvenuto per il Brasile in maniera profondissima, ma anche per Cina, India e Russia, cioè tutti i famosi BRICS. L'ultima missione risale a sostanzialmente inizio febbraio, fine gennaio, inizio febbraio, da parte del Presidente del Consiglio, che visitò il Ghana, ricorderete, ne parlammo, l'accordo con le Ferrovie dello Stato, la Nigeria, dove vi furono anche dei temi legati molto alla sicurezza e al terrorismo, visto la presenza dei terroristi filo ISIS, chiamiamoli così, di Boko Haram, la cooperazione economica nel Senegal invece fu un altro degli atti importanti di quella missione che in qualche modo portava a termine la seconda parte della missione africana, che ripeto non è solo quella governativa e dei ministri, ci sono le banche al seguito, ci sono le imprese al seguito soprattutto, ma dicevo portava a compimento con la seconda parte quella missione iniziata con Mozambico, Angola e Congo. E allora ne parliamo con uno dei massimi esperti di imprese italiane in Africa. Voi dite, beh, insomma, Africa intanto subsahariana, con una particolare specializzazione per la cosiddetta Centro Africa, Africa Nera si chiamava una volta, con un termine forse non bello, già console onorario di Mozambico a Milano, già responsabile per quello che riguarda Confindustria Giovani in tutte le relazioni con il continente africano subsahariano, e attualmente è delegato in Italia delle Confindustria, quindi gli imprenditori dei paesi di lingua portoghese africani. E allora Simone Santi, buonasera. Buonasera. Dunque, intanto il cosiddetto follow up, perché poi arriveremo al tema della Cina e degli sviluppi. È difficile, è quasi impossibile parlare di un subcontinente in maniera così aggregata e, se volete, anche generica, però cerchiamo di dare delle tracce almeno su questo. Queste missioni stanno dando i loro frutti, ma soprattutto è vero quello che io ricordavo, cioè ancora vero quello che ricordavo, che l'Africa in questo momento, l'Africa subsahariana, pur con tutte le difficoltà, resta ancora una delle aree più dinamiche a livello mondiale? Parto dall'ultima, sì, dall'ultima riflessione. È assolutamente vero che l'Africa subsahariana è oggi il continente, la parte, diciamo, del mondo che cresce di più. Se vogliamo, relativamente agli ultimi anni, cresce anche di più dell'Oriente, quindi diciamo dell'Oriente all'ordo del Giappone, e cresce a una media di 5,7% l'anno come media negli ultimi 10 anni, quindi è una crescita abbastanza costante. Parliamo innanzitutto di una parte del mondo che è molto giovane, e questo è un dato molto importante, e quindi è dove i consumatori, quindi la classe media, è una classe che cresce. Addirittura abbiamo, per un dato che diciamo è comodo a tutti, il 17% di crescita dei telefonini annuo, quindi una classe media che spende anche sempre di più. Quindi su questo sicuramente siamo sulla direzione giusta. Follow up delle missioni. Innanzitutto c'è da dire che è stata la prima missione, quella di Renzi, organica, in Africa, che dopo quasi 20 anni, perché non c'era mai stato un bilaterale di un primo ministro se non un multilaterale in Etiopia. Prima missione in Mozambico, evidentemente anche legata al mondo dell'oil and gas, che è un mondo che ci vede presenti, perché non dimentichiamo che l'ENI è il primo produttore di olio in Africa. Ed è anche il nostro grande ambasciatore, diciamo, parallelo alla Farnesina, integrato con la Farnesina, ma non dimentichiamo che l'ENI delle volte non se ne abbia la Farnesina, ma l'amministratore delegato locale dell'ENI conta quasi più della Farnesina. Però ti ho interrotto, scusami. No, senza dubbio è giustissimo. Quando arriva ENI, innanzitutto arriva a un livello di professionalità molto alto, arriva a un livello di ingegneria molto alto che possiamo insegnare anche alle grandi major del mondo, e soprattutto arriva tutto un indotto di imprese italiane. Eccolo lì che una missione istituzionale, insieme ovviamente all'associazione di categoria, insieme anche alla presenza dell'ENI, chiaramente porta interesse, e il follow up sta avvenendo. Dobbiamo anche citare che negli ultimi anni anche l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, ha fatto uno sforzo in Africa, ha aperto nuovi uffici, ha aperto l'ufficio in Mozambico, ha aperto l'ufficio in Angola, ha aperto l'ufficio adesso a breve in Ghana. Tutti i paesi che vedono una presenza ovviamente di, appunto, nel settore delle risorse minerarie, ma anche uno sviluppo nella trasformazione. Ecco, su questo follow up lo dico a chi sta scrivendo, è vero che ho bandito gli inglesismi, chiedo venia, vuol dire ricaduta. Quando tu fai una missione, la cosa importante non è solo la missione in sé, gli incontri che hai, ma andare a vedere se poi da questi incontri si genera qualcosa di concreto, se i contratti vengono effettivamente firmati, o meglio, sono firmati in memorandum di solito, ma se poi vengono implementati, quindi messi in opera, se vi sono altre ricadute. Di solito si fa anche una missione opposta, cioè quei paesi che tu hai visitato vengono in Italia a loro volta con le loro delegazioni. Funziona così. La stima dell'OCSE è di una crescita del continente africano del 5%, ma è interessante notare che è più lenta, cioè rallenta la crescita del Sudafrica, uno dei BRICS, anche lui, e dei paesi dell'area mediterranea. Lì il tema terrorismo è dominante, per cui in realtà stiamo parlando una volta tanto dell'Africa, ripeto, non è un bel termine, ma è per farsi capire, della cosiddetta Africa nera, quella subsahariana, che cresce a ritmi più elevati, parte da condizioni sicuramente più basse, ma cresce a ritmi più elevati del resto dell'Africa. Tra i vari paesi che ho citato e che sono stati toccati dalla missione, quali, al di là dell'ENI, e quindi in questo caso per sul fronte per esempio dei consumi interni, dell'impiantistica, delle infrastrutture, quali sono i paesi che mostrano il maggior dinamismo? Sicuramente da citare, è giusta la valutazione sul Sudafrica, che è diciamo fermo, è il grande animale fermo in questo momento. È un animale che ha bisogno di energia, quindi c'è anche tutto il tema dello sviluppo dell'energia. Sicuramente i paesi più interessanti al momento sono i paesi Mozambico in questo momento, l'Angola e la Nigeria continuano a essere i due grandi produttori di olio, ma sono anche due paesi che si sono fermati per via del prezzo del petrolio. Il Senegal in questo momento sta riprendendo, così come la Costa d'Avorio, dove notiamo che è tornata anche la Banca Africana di Sviluppo per via anche della fine delle ostilità. Purtroppo l'Africa bianca è quella che in questo momento si è fermata di più. L'Africa bianca è l'Africa del Nord. Tornando al discorso, al tema giusto di come dare supporto il più possibile alle nostre imprese, ci sono tante imprese, da come Finmeccanica, come l'ENI, come la Prismian, che era Pirelli Cavi, eccetera, grandi imprese che vengono e chiudono i contratti. Ma poi serve una presenza locale. La presenza locale è data spesso e volentieri dagli italiani che sono in Africa da tanti anni. Adesso gruppi come Stefanutti in Sudafrica, Barbisotti in Ghana, Varnero i costruttori in Etiopia, lo stesso discusso Volpi per quello che fa nell'oil and gas in Nigeria e in Angola, lo stesso mio gruppo che ha predisposto molte aziende in questi paesi africani, sono un riferimento importante. Allora sicuramente l'istituzione, insieme a chi ha esperienze in questi paesi, dà delle garanzie. Purtroppo come italiani spesso, soprattutto noi imprenditori, non siamo abituati moltissimo a fare squadra, e quindi troviamo spesso nel primo interlocutore locale, magari un po' più furbo degli altri, troviamo un interlocutore che ci sembra affidabile. Bisogna stare molto attenti. Però è il momento di parlare di un'Africa in positivo, un'Africa che crea opportunità e che vuole trasformare appunto le risorse minerarie in produzione e trasformazione, e che oggi vuole la piccola impresa italiana. Ho ancora due domande per lei. La prima, lei ha citato gruppi medio-grandi, non solo grandi. Vorrei capire qual è il problema per le piccole e medie, nel senso che l'Africa può rappresentare, come tutto l'export in questo momento, il vero bacino di sfogo della produzione. Però sappiamo che il problema della piccola non è tanto, non sono solo le dimensioni, ma è proprio la struttura interna, e delle volte, non si offendano, i piccoli imprenditori hanno anche una mentalità. Cioè, allora la soluzione che lei vede più frequentemente di successo è quella che le piccole si appoggiano alle medie, e quindi anche magari in settori non di stretta appartenenza, ma che conoscono comunque il paese, oppure che facciano massa critica tra di loro, o invece che creino un cosiddetto spin-off, cioè una società estera dedicata a quell'area. Le piccole imprese italiane hanno un problema culturale molto importante, soprattutto come approcciano l'Africa. L'impresa, piccola media impresa italiana investe più facilmente, tra virgolette, a Dubai, che è un mercato maturo, invece che in un paese africano. E quando dico di investire, significa investire, cioè mettere della finanza, mettere del personale, investire in servizi, investire in un ufficio, una domiciliazione, quindi non essere solo pronti, diciamo, alla commessa. Purtroppo l'Africa da una decina d'anni ha abbandonato la logica della pura commessa, perché non si fida più, e non si fida neanche più del, diciamo, è paradossale a dirlo, ma non si fida neanche più tanto delle imprese europee, sapendo che molte imprese europee poi finanziariamente non sono affidabili. Quindi oggi il miglior processo è quello di credere magari in un paese, non nei 54 paesi africani, che sono appunto moltissimi e molto diversi, ma iniziare a fare dei piccoli investimenti mostrando una presenza. È chiaro che il tutto è tagliato rispetto alla dimensione aziendale, è più facile per medie aziende, ma anche piccole aziende tipo Donelli, Faresin, ce ne sono tantissimi di casi di aziende che decidono di iniziare con un ufficio, iniziano con assumendo qualche locale che fa una parte di promozione, e poi chiaramente spesso vanno al traino delle medie, certo, e delle grandi, quelle senza dubbio. Però attendere un contratto su una brochure oramai è antistorico, bisogna fare un passo in più, e come gli imprenditori italiani hanno fatto con coraggio in moltissimi altri continenti, è arrivato il momento di farlo anche in Africa. Ultimo, rapidissimi, i settori, se c'è un settore, o ci sono dei settori di elezione per le piccole imprese e medie imprese, delle grandi non mi occupo in questo caso perché hanno altre strutture, altra conoscenza di quei territori e altri, diciamo, oggi la giornata degli inglesismi, stringer, cioè agganci, contatti, rappresentanti in quei territori, se ci sono dei settori particolari, e quanto ancora pesa la concorrenza cinese. Noi raccontammo in alcune puntate anni fa di quello che era la conquista cinese dell'Africa, dove un interscambio commerciale che, pensate, nel 2000 valeva appena 10 miliardi, negli ultimi anni ha superato i 200 miliardi, quindi in soli 15 anni è decuplicato, con una Cina che va giù, lo sappiamo, per fare che cosa? Fa opere infrastrutturali, in cambio ottiene diritti di tutto, diritti di pesca, c'è anche il tema del land grabbing, della rapina, diciamo, del terreno, contratti decennali, per cui insomma qualcuno ha parlato di neocolonialismo cinese in Africa. Quindi settori, e quanto è forte questa concorrenza per gli italiani. I settori che vedono più danno più possibilità alle imprese italiane sono sicuramente quello dell'energia, anche sulle rinnovabili. In questo momento è il grande tema dell'Africa, la creazione di energia su base rinnovabili. Non dimentichiamo che l'Africa è il più grande continente per biomasse, per solare, certo, per eolico, e dove l'Italia ha una grande capacità, soprattutto di piccolo e medio taglio. Sulla trasformazione di prodotti agricoli, il grande potenziale dell'Africa è l'agricoltura. Purtroppo è pochissimo presente, sono pochissimo presenti imprese italiane che investono nell'agricoltura, ma c'è un grandissimo spazio sulla trasformazione di prodotti agricoli. E sicuramente rimane il settore delle costruzioni e dei materiali di costruzione. Anche su questo però bisogna iniziare a fare uno sforzo, cioè bisogna iniziare anche a produrre o a montare o a assemblare delle produzioni in Africa, che vanno appunto dagli scaffali ai casseri, alle mattonelle e così via. Il tema della Cina. Ecco, sul tema della Cina io mi trovo sempre un po' in disaccordo con tutti. La Cina ha la migliore strategia sull'Africa in assoluto, perché la Cina porta lavoro e finanza. Allora, chiediamoci noi quello che poi l'Italia portava negli anni Ottanta. L'Italia con la cooperazione portava finanza e di conseguenza portava contratti che poi entravano sul bilaterale. La Cina fa esattamente la stessa cosa, con la differenza che poi, tra virgolette, passatemi il termine, scarica montagne di cinesi che lavorano dentro. Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo recuperare anche finanza, e qui un po' un monito alle banche italiane. Le banche italiane non hanno mai investito al di sotto dell'Africa bianca, quindi in Africa nera non c'è presenza assoluta di banche italiane. E questo che cosa significa? Che da una lettera di credito fino appunto a un credito vero e proprio, le imprese italiane hanno meno competitività. Qualora le imprese recuperino un po' di finanze e riescono a portare investimento, in assoluto possono recuperare spazi, perché la piccola impresa familiare è quella più richiesta dai paesi africani, che devono accettare la Cina, devono accettare gli ex colonizzatori, ma che gradirebbero avere molta più presenza di imprese di piccolo taglio. È più richiesta la piccola impresa di una matrice familiare tipicamente dell'Italia, italiana come modello? Perché la cultura africana innanzitutto è una cultura familiare, e quando si parla di una famiglia si parla di una famiglia allargata, certo. E quella cultura si sposa perfettamente con la cultura dell'imprenditoria italiana, che è un'imprenditoria familiare, e per fama e per realtà è molto conosciuta e quindi anche molto richiesta. E poi devo dire che gli africani vedono che gli italiani che hanno investito negli ultimi 20-30 anni, portando le loro famiglie ed investendo alla pari, quindi considerandoli alla pari, in realtà gli hanno dato, oltre al business, oltre alle opportunità, perché è difficile trovare un imprenditore africano che non cresca, e quindi l'altro suggerimento è: sceglietevi dei partner locali, come un tedesco lo dovrebbe scegliere in Italia, diciamo, certo. Così. Ebbene, oltre al business, alla fine gli imprenditori italiani hanno anche messo il cuore, e questa parte viene apprezzata dalla cultura africana. Allora speriamo che sia sempre più così. Grazie a Simone Santi. Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'ERP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. minuti, spostiamoci adesso sulla borsa. Ripeto, oggi giornata non di quelle immemorabili, dunque invariata Milano 18.171 punti, Parigi più 0,80, Francoforte più 0,40, Londra invariata, il Dow Jones negli Stati Uniti è a meno 0,16%. Bene, Buzzi Unicem più 4,5, Ferragamo più 2,70, Prismian più 1,90, Enel più 1,60, Enel Green Power più 1,5 come Azimut, bene anche Fiat più 1,30 come Exor più 1,30% e Moncler più 1% come Intesa San Paolo. Male oggi, al di là delle banche di cui ci occuperemo, Monte dei Paschi perde 4,80%, qui su Monte dei Paschi ogni giorno ce n'è una, insomma. L'ipotesi pubblicata di un nuovo aumento di capitale da 3 miliardi nonostante la smentita. Poi le due banche ormai in versione nozze, mi riferisco a Milano e Banco Popolare, meno 3,60%, meno 3,70% Banco Popolare, Pop Emilia Romagna meno 4,13%, Unicredit meno 2,70%, Ubibanca meno 2%. L'unica banca che va bene oggi, non è un caso, è la Cassa di Risparmio di Genova, che guadagna il 4,80%. E fra poco parleremo anche di come funzionano questi fondi, questo qui si chiama Apollo, che vanno a comprare i crediti inesigibili, i non performing loans, quindi le sofferenze, e dalle banche stesse. Molti, ripeto, ci chiedono: ma perché uno va a comprare crediti che non potranno essere riavuti indietro? Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dalle altre banche, Monte dei Paschi, ma non solo. E poi andiamo anche su Saipem. Saipem oggi è di nuovo pesante, meno 5,25% a 33 centesimi di euro. Sì, Saipem è pesante soprattutto perché paga anche la debolezza del greggio, sta perdendo quasi il 3,5%, si attesta a $38 al barile, quindi sappiamo bene che con il greggio debole Saipem tenderà a lavorare sempre meno. E detto questo, invece, per quanto riguarda le banche, come hai detto tu, sono quasi tutte deboli, MPS in prima fila perché c'è stata l'ipotesi che la banca abbia necessità di un aumento di capitale da 3 miliardi, ipotesi che la banca ha smentito, ma intanto gli investitori evidentemente qualche dubbio ce l'hanno a giudicare dall'andamento di borsa. Poi hanno continuato a perdere quota anche le BPM, le Banco Popolare, nonostante peraltro Moody's abbia, diciamo, benedetto la loro fusione, abbia detto infatti che si tratta di un'operazione positiva, che peraltro sarà positiva anche per tutto il sistema bancario. E poi sono andate male praticamente quasi tutte le banche, fatta eccezione di Intesa, che sul finale ha guadagnato l'1%, e fuori dal paniere principale di Carige, che, come hai detto tu, ha confermato di aver ricevuto l'offerta del fondo Apollo. Il famoso fondo Apollo di cui adesso andremo a parlare. Volevo però altre notizie, non in questo caso sulle banche, per i titoli, perché abbiamo visto muoversi bene invece appunto Buzzi-Unicem, Ferragamo e anche alcuni energetici, Enel ed Enel Green Power. Più al palo Eni, faccio notare che oggi il petrolio ha perso il 3% circa, sotto i 40 e anche sotto i 39, oscilla sui $38.39 al barile. Enel e Buzzi-Unicem. Sì, Enel e Buzzi-Unicem si sono un po' riprese, non è che ci siano state in quest'oggi delle notizie particolari, va detto anche che siamo a fine mese, dunque c'è un po' un riaggiustamento di posizioni, così come anche per Ferragamo. Semmai in questo caso la casa della Maison Fiorentina giovedì scorso, quindi prima della pausa pasquale, ha comunicato che Massimiliano Giornetti, che stava nell'azienda da tantissimi anni e che disegnava appunto l'uomo dal 2001 e poi era responsabile di tutta, diciamo, la parte creativa della casa fiorentina dal 2011, si è dimesso, cioè ha lasciato la casa, quindi si apre un nuovo capitolo evidentemente per la stessa Ferragamo, ma la borsa sembra averlo recepito positivamente, premiando il titolo con più 2,7%. Devo dire che oggi in rosso sono anche le Poste italiane, meno 1,70%, segnalo che su Sole 24 Ore oggi si ipotizza che il Tesoro stia pensando a una ulteriore riduzione della sua quota nelle Poste italiane, potrebbe mettere sul mercato il 30%, portando la partecipazione dal 65% al 35%. Grazie, Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Migliori e peggiori, Media Contact più 9,46, Eukedos più 4,90, Ambro Mobiliare più 4,80 come la Cassa del Risparmio di Genova. Peggiori invece Meridie meno 13%, Metorius Capital meno 9,15, Société Générale meno 8,80%, Biancamano meno 5,60%. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora parliamo di banche nel doppio aspetto: da un lato di capire cosa è successo sabato scorso, l'abbiamo saputo e anche capito, ma perché a sorpresa, ripeto, nessuno vuole che le assemblee, nel caso specifico la Popolare di Vicenza, vadano in un certo modo, però dopo tutte le polemiche che abbiamo ascoltato in questi mesi, giuste anche su una banca in ginocchio, diciamo, distrutta dal precedente gruppo manageriale, da partire dal presidente Zonini in giù. E, insomma, è successo qualcosa di strano a Vicenza, perché si è riunita l'assemblea degli azionisti per la seconda volta in meno di un mese, doveva approvare il bilancio 2015 che si è chiuso con una perdita di 1.400 milioni, ma c'era anche il tema delle politiche di remunerazione dei vari manager. Era stata chiesta un'azione di responsabilità, perché la vicenda la conoscete, azioni che vengono vendute, l'accusa è che per avere un mutuo bisognava comprare le azioni della banca che non erano quotate, e in alcuni casi anche prestiti che venivano erogati per comprare azioni della banca, che erano offerte fino all'estate del 2014 a 62,50 euro, non si potevano rivendere perché non erano quotate, appunto non si trovava il compratore, e poi vengono fatte scendere a 48 euro come prezzo e adesso sono a 6,30 euro con l'ultimo, e sono anche calate ulteriormente. Adesso vedremo chi poi si comprerà la Pop Vicenza, con chi andrà in fusione. La polemica era nata perché si era saputo che il consiglio di amministrazione nuovo, quello che è guidato da Francesco Iorio, aveva comunque detto di distribuire ai precedenti vertici 1 milione di euro per l'ex presidente Gianni Zonin, complessivamente 2.680.000 euro di bonus d'ingresso, una tantum a 6 dirigenti, inclusi Iorio e De Francisco. Ma non solo, perché questi sono i nuovi 4 milioni riconosciuti all'ex amministratore delegato Samuele Sorato, indagato assieme a Zonin per ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio, il quale a questo punto nel 2015, si è dimesso il 12 maggio, ha guadagnato 4.600.000 euro. Poi c'erano Marino Breganze, 400.000 euro, vicepresidente storico e braccio destro di Zonin, l'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, 294.000. Insomma, tutto questo aveva fatto infuriare gli azionisti. L'azione di responsabilità avanzata, se non ricordo male, adesso da Renato Bertelle, non è passata. Allora, a chi l'ha seguita? E mi riferisco a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Ripeto, ogni assemblea ha il diritto di votare quel cavolo che vuole. È un po' strano che, viste le tensioni, vista il disastro, sono 5 miliardi di risparmi bruciati solo per gli azionisti della Popolare di Vicenza, bruciati veramente, nel senso che non è che, non essendo quotata, non è che uno può sperare che torni sul titolo in questo momento, li hai persi e basta, e altri 5 li ha bruciati Veneto Banca. Uno immaginava quantomeno un'assemblea tutta a votare l'azione di responsabilità. Perché non è avvenuto? Ma anzitutto mi viene da fare un piccolo passo indietro, vale la pena di ricordare che questa di fatto era la seconda assemblea, certo, nello spazio di un mese della Popolare di Vicenza, per cui il 5 marzo nello stabilimento, una fabbrica dismessa a Gambellara, c'erano stati più di 5.000 soci che si erano trovati a votare la trasformazione in SPA e poi l'aumento e la quotazione in borsa, e lì era stato un clima pesantissimo, però era passato tutto, 80% per la SPA e via via tutto il resto. Sabato scorso, vigilia di Pasqua, fatto probabilmente non casuale, nuova assemblea, prima assemblea di SPA, e quello che era stato chiesto proprio il 5 marzo è avvenuto il 26, cioè il presidente Dolcetta ha proposto di dare una delega al nuovo CDA, quello che verrà eletto a giugno dopo l'aumento di capitale, che probabilmente rimescolerà molto le carte appunto nel capitale, essendo un aumento molto consistente da 1.700.000.000. Ebbene, Dolcetta ha proposto di dare la delega a questo consiglio di effettuare un'azione di responsabilità. Diciamo incredibilmente, perché a giudicare dagli umori dei soci sia del 5 che del 26 sembrava che fosse destinato a un plebiscito questo voto, invece tra i contrari e tra gli astenuti alla fine non si è raggiunta la maggioranza del capitale presente, perché a questo punto, essendo SPA, evidentemente, certo, conta il capitale. E che lettura si può dare? Si può dare evidentemente, quello che emerge è evidentemente che il sistema che si era creato intorno alla banca, una banca che mischiava credito e emissione di azioni, evidentemente è ancora almeno in parte in piedi, perché evidentemente c'è qualcuno che ha interesse affinché l'azione di responsabilità non venga portata. Diciamo che l'azione di responsabilità, se vogliamo, è un'indagine interna, non dimentichiamo che c'è la procura, anzi più procure che stanno indagando, l'azione di responsabilità di fatto sarebbe un approfondimento interno. Quindi evidentemente c'è qualcuno che interesse che non avvenga perché ha votato contro, o addirittura non ha così interesse al punto da non votare. Oggi c'è stata una raffica di dichiarazioni molto polemiche da parte dei sindacati, addirittura la Fabi, questo già sabato, se ricordo bene, ha detto che scriverà la BCE, perché questo evidentemente lo reputa intollerabile, questa cosa che evidentemente l'azione di responsabilità non venga portata avanti. Certo, sì, devo dire che anche il vice ministro Zanetti, che è veneziano, quindi dice, da esponente politico veneto e uomo di governo, non ho avuto dubbi nel dire che sarebbe stato folle non andare avanti con la SPA, perché l'alternativa era il fallimento della banca. Per la stessa ragione però non ho dubbi nel dire oggi con altrettanta chiarezza, l'ha dichiarato appunto il 26 marzo, che è stato folle da parte di questa stessa assemblea dei soci non votare a favore di un'azione di responsabilità contro i precedenti vertici. Sono veramente esterrefatto. Cioè, questa volta non possiamo dare la colpa né alla politica e nemmeno ai precedenti vertici. Io ho capito il tuo ragionamento, ma siccome hanno speso per i vertici come remunerazioni l'anno scorso il 52% in più rispetto al 2014, per un totale di quasi 17 milioni di euro di bonus remunerazioni di un vertice che ha distrutto una banca. Ora, tu puoi dire sì, probabilmente è ancora molto presente, ma così presente da spostare i voti, perché abbiamo visto appunto che, come tu ricordavi, non c'è stato i contrari sono stati il 18,6%, gli astenuti il 43,29%, cioè sono stati 170 soci contrari all'azione di responsabilità e 1400 soci astenuti, mentre il 38% ha votato a favore, ma non è bastato. È possibile che, insomma, cioè ci sia ancora una presa così forte? Qui parliamo di migliaia di soci. Ma, non dimentichiamo che questa, come accennavo prima, era la prima assemblea in formato SPA, quindi pesava il capitale. Evidentemente qua ci sono dei grandi azionisti con grosse quote che non ritengono necessaria questa azione di responsabilità. Mi viene evidentemente si tratta di un'illazione, però essendo condotte che si sono protratte, sta emergendo dalle inchieste per anni, evidentemente sono questi stessi azionisti che probabilmente hanno beneficiato di alcuni comportamenti particolarmente allegri, che hanno danneggiato però gli altri azionisti, perché comunque evidentemente c'erano migliaia di piccoli azionisti che per un mutuo venivano di fatto obbligati, comunque così sembra dalle indagini. Sì, mi sta scrivendo alcuni ascoltatori che erano presenti all'assemblea come azionisti, la colpa è stata del sistema di voto. Io non so che cosa si possa imputare al sistema di voto. Faccio notare che i 5 miliardi a cui facevo riferimento prima di risparmi bruciati riguardano una platea di circa 120.000 persone, 120.000 soci a quel tempo, e adesso immagino azionisti nella maggior parte, e dei quali azionisti, per cui insomma i numeri non tornano. Comunque, Marco, ecco, sì, vale la pena anche forse ricordare che sono gli ultimi anni quelli in cui si è concentrata la maggior densità di truffe ai danni dei soci. Questo lo si vede dal fatto che in 4-5 anni è raddoppiata la base sociale della Banca Popolare. Questo vuol dire che decine di migliaia di soci sono entrati tra il 2010 e il 2015, quando l'azione era un prezzo altissimo, tu ricordavi quasi 50 euro, e che sono quelli che hanno perso di più. Invece, oltre 60 euro. Oltre 60, scusami. Mentre i soci che magari sono entrati 20 anni fa, 30 anni fa, hanno perso molto di meno, e nel frattempo hanno probabilmente beneficiato di una banca che era, diciamo, sensibile alle richieste del territorio. Allora, ripeto, uno può pensarla come vuole, dopodiché va detto anche che quando si è azionisti si hanno delle responsabilità, cioè uno non può non andare in assemblea o astenersi perché non ha un'idea e poi lamentarsi di come vanno le cose. Lo dico con massimo rispetto, uno può votare in maniera contraria perché dice non è giusto, magari uno può pensare eravamo tutti d'accordo, non è giusto prendersela solo con i vecchi vertici, ci sta anche questo come ragionamento, tutto è possibile. Ricordiamoci che però poi gli azionisti contano, perché sennò darla sempre la colpa ai manager se gli azionisti non sono mai presenti o girano la testa dall'altra parte è troppo comodo, poi giustamente il manager si muove come meglio crede, per cui forse anche una cultura di cosa sia, diciamo, una SPA andrebbe, non dico spiegata, ma fatta metabolizzare ancora di più, perché obiettivamente o va bene così e andava bene così, a tutti andava bene così e pace, oppure se continuiamo a ricevere messaggi, lettere, mail, di tutto dagli azionisti della Popolare di Vicenza, poi questa cosa non si è vista sabato in assemblea. Marco, per chiudere. Sì, no, sarebbe stato interessante vedere come quale sarebbe stato l'esito di questa votazione se fosse stato sottoposto ancora all'assemblea della Popolare, cioè 20 giorni fa. Chissà come sarebbe andata a finire. Sì, ho capito, però il nuovo CDA ha il diritto di indire una nuova assemblea come SPA, e tu, visto che ci stai perdendo, forse ti conviene andare, perché non dico che in quel modo tu recuperi chissà che cosa, ma almeno, diciamo, il segnale è un segnale forte. Grazie comunque a Marco Ferrando. Allora, i dipendenti si sono astenuti, raccoglievano le deleghe per pilotare il voto, non lo so. La Curia di Vicenza deve prendere una posizione, non stiamo ragionando di questo. Insomma, nelle votazioni precedenti non era necessario andare alle urne per approvare, in questo caso era necessario presentarsi all'urna. Ho capito, ragazzi, però guardate i numeri delle persone presenti, sono bassini, nella seconda assemblea dei votanti sono bassini, per cui poi se passa la non, appunto, cioè sostanzialmente viene lasciato tutto quanto allo status quo, una non azione di responsabilità, non ce la si può prendere con nessuno. Chi era presente ha votato in quel modo. Comunque, traffico, e poi parliamo invece dei cosiddetti NPL, ossia che agitano molto la cassa di risparmio di Genova, ossia chi va a comprare le famose sofferenze bancarie, perché da lì passa poi, chiamiamolo così, non il risanamento in senso stretto, ma l'alleggerimento di molti fardelli, di molte zavorre che gravano sui gruppi italiani, nessuno escluso, poi chi più chi meno. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presento Focus Economia. minuti 18. Ci stanno scrivendo alcuni azionisti della Popolare di Vicenza, non è arrivato alcun invito. Se fosse così sarebbe grave, perché insomma, quando tu sei azionista e c'è un'assemblea degli azionisti, l'invito deve arrivare, per cui se veramente non è arrivato l'invito e siete in grado di dimostrarlo, scriveteci, non so altro cos'altro dire. È tutta un po' strana questa vicenda, lo dico onestamente, perché adesso possiamo anche far finta di essere mezze vergini, ma insomma, che in questo momento gli azionisti della Popolare di Vicenza, che hanno visto distrutto del 90% il valore dell'azione, votino contro l'azione di responsabilità, insomma, per carità. Allora, Moria Longo, Il Sole 24 Ore con te. Buonasera Moria, innanzitutto. Buonasera a tutti. Parliamo degli NPL, Non Performing Loans, in realtà sono i crediti che le banche hanno concesso spesso a imprese, delle volte anche a famiglie, e che non torneranno più indietro, le famose sofferenze bancarie che stanno zavorrando il mondo bancario italiano. Le A pesano, devi accantonare molti soldi, lo dico male, ma insomma, quando hai delle sofferenze la BCE ti chiede di accantonare soldi a copertura di queste sofferenze. La soluzione è liberarsi, la famosa bad bank, ricorderete, alcuni mesi fa, liberarsi di queste sofferenze. Come si può fare? Si cerca una società che ti compri queste sofferenze, questi non performing loans, e poi a quel punto cerchi di guadagnarci. Lo dico perché il tema è d'attualità, perché si è avuta notizia che il fondo statunitense Apollo, specializzato appunto nel leverage buyout e operazioni con società e in titoli in difficoltà, avrebbe fatto un'offerta per la cassa di risparmio di Genova, per prendere l'intero portafoglio di crediti in sofferenza, che sono 3 miliardi e mezzo di euro di sofferenze, e entrare nella banca con una quota superiore al 50%, quindi con un aumento di capitale riservato ad alcuni soci da 500 milioni di euro. Ma una volta che li comprano, come fanno a guadagnarci? Allora, il mondo dei crediti in sofferenza, quindi dei crediti inesigibili, è dato tutto dai prezzi di acquisto e di vendita. Faccio un esempio: una banca eroga un finanziamento a un'impresa per 100.000 euro. Questa impresa fallisce e non ripaga più il suo debito. La banca lo svaluta in bilancio, cioè lo mette in parte a perdita. Se io lo compro non a 100.000 euro, ma lo compro a 10.000 euro, quindi la banca si prenderebbe in questo caso 90.000 euro di perdita, o 20.000 euro lo compro, quindi la banca si prende 80.000 euro di perdita. Io ho comprato un credito che valeva 100 in origine, ma oggi vale 20, io l'ho pagato 20. Quindi posso benissimo andare dall'imprenditore fallito e dirgli: senti, se tu mi offri 30.000 euro invece dei 100.000 che doveva la banca, la chiudiamo così. Quindi l'imprenditore ha sostanzialmente un grosso sconto, e quindi magari anche un'impresa fallita, anche una persona che non ha soldi, comunque magari un po' di soldi riesce comunque a darli per chiudere la vertenza, e io che ho il fondo che ha comprato il credito in sofferenza, l'avendolo pagato molto poco, anche quel qualcosina in più che riesce a recuperare gli dà un grosso margine di guadagno. Quindi il gioco sta tutto nel prezzo di vendita, ed è questo il grosso problema delle banche italiane, perché le banche italiane hanno i crediti in sofferenza svalutati, sì, come dicevi tu prima, ma svalutati poco. Li hanno svalutati intorno al 40%, cioè vuol dire che le banche hanno già preso mediamente 60% di perdita e ce li hanno in bilancio un valore di 40%. Siccome i fondi che comprano non compreranno mai il 40%, perché da questi crediti non recupererai mai il 40%, ma comprano mediamente il fondo Apollo, oggi ho fatto un'offerta che ha un prezzo intorno al 20% del valore dei crediti. Le banche, se vendessero i loro crediti al 20%, come è la domanda di questi investitori specializzati, avrebbero delle grosse perdite ulteriori in bilancio. Ed allora, è per questo che non li vendo. Questi crediti vengono messi. Allora, io quando ho un bilancio posso dire che il signor Moria Longo, che mi deve 100.000 euro, è ancora solido, quindi io immagino non li metto in sofferenza, perché penso è il giochetto che fecero le quattro banche incriminate, ma non solo, anche la Popolare di Vicenza, visto che ne parlavamo un secondo fa, e Veneto Banca. Cioè, non mettere come sofferenze dei crediti che io so che non mi torneranno più indietro. O anche se le metto in sofferenza, li svaluto non molto, perché poveri, dico, no, do per scontato che recupererò di più. Per Moria non mi darà 100.000 euro, me ne darà 90.000, e quindi dico che in realtà io ho perso solo 10.000 euro su Moria. Ora, quello che tu stai dicendo è che in realtà le svalutazioni fatte su quanto effettivamente potrà rientrare sono ancora molto buone, molto, diciamo, caute. Perché? Perché sennò la banca vede peggiorare i suoi bilanci, e se peggiorano troppo tocca fare gli accantonamenti, e se non hai i soldi tocca fare l'aumento di capitale. Sì, te lo chiede la Banca Centrale Europea. Sono vere entrambe le cose. Da un lato le banche le hanno svalutati non abbastanza, dall'altro i fondi che comprano, siccome vogliono guadagnarci molto, vogliono comprare il prezzo più basso possibile. Quindi dal valore di bilancio, che mediamente è il 40% del valore originale dei crediti, al valore in cui questi fondi sono disposti a comprare, che è intorno al 20%, c'è un gap che è una perdita grossa per le banche italiane. Due domande al volo ci chiedono gli ascoltatori: ma se uno è fallito come fa a pagare? E due, perché queste cose non può fare la banca stessa senza andare, allora, sotto la ghigliottina, diciamo, del fondo, che dice no, quei 100.000 euro di Moria tu me li svaluti a 20.000, cioè al massimo ne vedi 20.000, così io poi se ne guadagno, se riesco a ottenere a Moria 25.000 euro, io ho guadagnato il 25% sul mio investimento, e comunque la banca porta a casa una perdita di 80.000 euro. Do la risposta per entrambe le cose. La banca non lo fa perché non è in grado di farla, perché le banche italiane hanno 200 miliardi di sofferenze, hanno un gran problema non hanno documenti molto spesso, hanno una gran confusione, non hanno database sufficienti, non hanno il personale, non hanno nessuno che vada dall'imprenditore, dal singolo cittadino, a volte sono anche microcrediti da 5.000 euro piccoli, deve avere una persona fisica dipendente della banca che vada a questa persona a fargli un'offerta. Le banche non hanno la struttura, mentre invece i fondi specializzati hanno le strutture specializzate che vanno anche porta a porta un recupero crediti. Esattamente, primo. L'altra domanda, non mi ricordo qual era, No, perché non lo fanno le banche, e da questo punto... Se l'imprenditore è fallito... se un imprenditore è fallito, in alcuni casi non si recupera nulla, ma in alcuni casi l'imprenditore aveva immobili, aveva capannoni, aveva qualcosa, ha un marchio da vendere, può vendere la società in procedura fallimentare, qualcosa da un fallimento si recupera sempre, a meno che non sia un fallimento clamoroso. Soprattutto se chiedi una cifra così bassa. Oppure un mutuo di una famiglia che non rimborsa più, si vende la casa, si fa qualcosa, comunque... un valore, anche il credito in sofferenza ce l'ha sempre, perché molto spesso ha qualcosa in garanzia. Allora, grazie Moria Longo, vedo moltissimi messaggi di azionisti della Vicenza, proprio Vicenza, che non è mai arrivato l'invito, bisognava andare in sede a ritirarlo. Ragazzi, scriveteci, io non so cos'altro dirvi, adesso vedremo anche di capire a quanti ammontino questi azionisti che non hanno ricevuto, non sapevano della nuova assemblea della Popolare di Vicenza, quella che si è tenuta sabato scorso. Sì, devo dire, il giorno sotto Pasqua, ma